9 e 59 minuti, una manciata di secondi alle 9, arriva puntualissima una nuova puntata di Pensatech. Come ogni venerdì, la nostra incursione nei temi delle nuove tecnologie, del digitale e dell'innovazione. Questa mattina parleremo di sicurezza informatica. La prima cosa che viene in mente di solito quando si parla di sicurezza informatica sono i virus. Chi di noi, utilizzando il computer più banalmente, ma anche i vari device, non ha trovato qualche problema con i virus, con i cosiddetti Trojan, con qualcosa che blocca il computer e lo rende inaffidabile e non più accessibile. Pensate a questo moltiplicato a tutto il sistema nazionale, il sistema internazionale. Ormai siamo sempre più dipendenti dalle nostre strutture informatiche e quindi ancora più fragili. E non parleremo solo di virus, ovviamente, parlando di sicurezza informatica, ma anche di furti di identità, di carte di credito saccheggiate. Se qualcuno di voi ha avuto magari queste esperienze o magari ha anche qualche suggerimento da dirci su come affrontarle, i nostri contatti, l'SMS 348-7649-289, la mail è diretta a @radiocittadelcapo.it. Vi ricordo ovviamente che ci potete seguire anche sui nostri social network, la pagina Facebook di Radio Città del Capo, ma anche su Twitter a @PensaTech con il CH. Questa mattina sentirete in onda solo la mia voce, ma vorrei fare qualche ringraziamento preliminare perché questa puntata è stata realizzata anche grazie a Marco Boscolo, a Lisa Lazzarato e questa mattina parleremo in onda sia con Alessandro Longo, giornalista esperto di nuove tecnologie, e anche Gigi Tagliapietra, il presidente del CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. E proprio il CLUSIT ha già stilato un primo rapporto sui reati informatici in Italia. Ovviamente ci faremo spiegare quali e insomma quanto sono importanti in questo momento le strutture che cercano di combatterlo, ma anche quanto si spende, quanto è grande il business della sicurezza informatica. Allora, prima di tutto facciamoci consigliare dal nostro Glossatech per riuscire a utilizzare i termini nella maniera più corretta possibile. E allora questa mattina il termine non può che essere sicurezza informatica. Il Glossatech è curato come al solito da Lisa Lazzarato. S come sicurezza informatica. Usare come password la parola password o 123456. Ecco un esempio di scarsa consapevolezza del problema della sicurezza informatica, che coinvolge tantissimi utenti, visto che le suddette password sono le più usate nonostante la loro prevedibilità. Questo problema interessa tutta la società ed è tanto complesso e pervasivo quanto lo sono le tecnologie informatiche al giorno d'oggi. La sicurezza informatica riguarda infatti i privati cittadini, ma anche le aziende e le pubbliche amministrazioni. E le minacce vanno dalle truffe ai furti di identità digitale agli attacchi informatici. Proprio gli attacchi informatici sono al primo posto tra i rischi tecnologici per i prossimi 10 anni, secondo il rapporto del 2013 sui rischi globali redatto dal Forum Economico Mondiale. Nella classifica dei rischi globali si trovano invece al sesto posto, dopo l'aumento delle emissioni di gas serra o la crisi per l'approvvigionamento idrico. Per affrontare i problemi della sicurezza informatica si possono e devono mettere in campo soluzioni tecniche, ma un grandissimo ruolo è svolto dall'informazione e da una corretta educazione all'uso delle tecnologie. E a proposito di corretto uso delle tecnologie e di consapevolezza dell'utilizzo degli strumenti, un SMS ci ricorda che ieri c'è stato il primo appuntamento del non corso di elettronica e informatica libera a Casalecchio, organizzato dal professor Davoli. Tantissima gente, ci scrive Ale, complimenti a Renzo. Prossimo appuntamento sarà per giovedì 20 febbraio e proprio all'informatica e alla l'elettronica libera e al corso del professor Davoli avevamo dedicato la puntata di venerdì scorso, che come ogni puntata di Pensatech potete trovare sul nostro sito rcdc.it, completamente scaricabile e con tutte le interviste. Parlavamo appunto di sicurezza informatica. Esistono diversi CERT in Italia, che sono i Computer Emergency Response Team, scusate per la pronuncia, sono organismi di eccellenza per la sicurezza informatica che gestiscono informazioni sulle minacce per le imprese, i cittadini, le infrastrutture. L'Unione Europea ha chiesto però ai Paesi membri di dotarsene di uno unico nazionale con funzione di coordinamento. La scadenza era fine 2012. Noi siamo arrivati un po' lunghi, il primo passo è stato fatto solo pochi giorni fa con la firma il 23 di gennaio di un decreto per la sicurezza nazionale, dove si parla anche di sicurezza informatica. E allora di cosa stiamo parlando? Quali sono i contenuti di questo decreto e come funzionerà questo CERT? Lo abbiamo chiesto a Alessandro Longo, che è giornalista esperto di nuove tecnologie. Anche l'Italia si è resa conto, forse un po' in ritardo rispetto agli altri paesi europei, di aver bisogno di una protezione per la sicurezza informatica a livello nazionale, cioè che non era più sufficiente difendere, lasciare la difesa della nostra rete informatiche alle singole aziende o ai singoli centri di sicurezza, bisognava creare una prima strategia con un approccio, come dire, nazionale, centralizzato alla sicurezza informatica. Significa, per esempio, che l'Italia si è resa conto che la nostra stessa economia, la nostra sicurezza del territorio sono a rischio, possono essere messe a rischio da un attacco informatico. Immaginiamo per esempio le nostre infrastrutture critiche, quelle che sono chiamate infrastrutture critiche, sono per esempio gli aeroporti, le stazioni, la rete elettrica, gli acquedotti. A livello europeo e non solo, si sta maturando la consapevolezza che un attacco informatico può essere pericoloso per la tenuta anche di queste infrastrutture, ma un attacco informatico su larga scala può danneggiare fortemente l'economia, le aziende. Sappiamo che ormai insomma tutte le principali aziende lavorano, operano su reti informatiche, fanno transitare i propri dati, le proprie transazioni economiche. Quindi attacchi informatici sono un problema non solo per le singole aziende, per gli utenti, eccetera, ma per il sistema paese. Per questo l'Europa sta spingendo da ormai da tempo perché i singoli paesi membri della Comunità Europea si dotino di una strategia per la cybersicurezza, per la sicurezza informatica, coordinando quindi lo studio dei pericoli, lo studio delle soluzioni, coordinando le azioni per prevenire e anche poi chiaramente per risolvere i problemi di attacchi informatici, coordinandoli a livello nazionale, come dicevo prima, ma non solo, perché una delle cose a cui sta lavorando l'Italia è il primo CERT, il primo centro per la sicurezza informatica nazionale, che insomma dei tecnici che lavoreranno operativamente e si coordineranno con le aziende specializzati in sicurezza informatica e anche con altri centri analoghi distribuiti su tutto il territorio europeo. Quindi insomma, davvero la sicurezza informatica è diventata, è arrivata a essere una priorità da curare per l'Italia e per l'Europa. C'era stata, se non erro, una prima scadenza già per la fine del 2012. C'è qualche provvedimento verso l'Italia, il fatto che ancora noi il CERT non ce l'abbiamo, e a che punto stanno gli altri paesi? L'Unione Europea raccomandava di farcela entro il 2012, però diventa cogente entro 2013, quindi non ci saranno chiaramente provvedimenti e l'Italia dovrebbe farcela entro quest'anno. Ormai mi dicono il centro, il CERT è a buon punto, è già in fase pilota. Quindi ce la dovremmo fare. Gli altri paesi sì, sono un po' più avanti, i paesi del nord Europa, però possiamo dire che tutto sommato il ritardo dell'Italia al momento, almeno su questo, è minimo, almeno sulla carta. Poi come sempre capita nelle cose italiane, soprattutto nelle cose italiane che riguardano il digitale, bisogna sperare che l'operatività poi non sia ritardata da problemi politico-burocratici, per esempio di competenze, no? Chi gestisce cosa, chi è responsabile di cosa, se ci sono delle sovrapposizioni a livello politico, già adesso non è chiaro, non sono chiarissime le competenze, sviluppo economico o infrastrutture o interno, quindi insomma c'è questo questo piccolo nodo, diciamo, di politica, che però insomma mi auguro che sia sostanzialmente risolto. Le elezioni potrebbero anche rallentare questo processo? Beh, alcuni passaggi sì, non quelli propriamente operativi e pratici, ma i passaggi che insomma determinano le competenze, potrebbero esserci dei rallentamenti. Non credo tanto perché è un tema più tecnico che politico, tuttavia insomma l'esperienza passata ci fa sempre incrociare le dita in questi frangenti. Su tante questioni, anche in generale l'e-government, cioè la pubblica amministrazione digitale, tutto ciò che incrocia i valori, i concetti di informatica e di Stato, di pubblica amministrazione, ecco, è più avanti nei paesi nordici, nei paesi anglosassoni. Il CERT si tratta di un organismo pubblico oppure ci sarà un bando rivolto poi a aziende private che lo metteranno in pratica? Beh, il CERT è un organismo pubblico, è non scende mai, non cala mai, perché sappiamo che ogni euro speso in sicurezza informatica al momento è qualcosa che poi ti permette di risparmiarne molti di più, perché un attacco informatico ha dei danni, come sappiamo, molto, molto maggiori quanto rispetto al costo della difesa. Tuttavia ci sono sì delle domande, ma adesso verso effettivamente i veri pericoli, i veri problemi che al momento emergono. E allora gli attacchi informatici continuano ad evolvere, addirittura i sistemi antivirus non sono più forse affidabili, questo ci diceva Alessandro Longo, giornalista esperto di nuove tecnologie. Allora ci potete raccontare anche quali sono le vostre esperienze riguardo agli attacchi informatici? Banalmente un attacco virus credo che l'abbiamo avuto tutti nei nostri vari informatici che stanno evolvendo. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, noi abbiamo il telefono Gigi Tagliapietra, che è il presidente del CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Tagliapietra, lei con il CLUSIT ha curato un rapporto sui reati informatici in Italia. Insomma, la minaccia non arriva solo dai virus. No, assolutamente. Diciamo che il più grosso problema è quello c'è una diffusione enorme di utilizzo di strumenti di comunicazione, di archiviazione e contemporaneamente non c'è la crescita della consapevolezza che questi oggetti a tutti gli effetti sono dei computer, memorizzano dati, hanno del software a bordo e sono quindi punti di vulnerabilità con i quali dobbiamo fare i conti. Quindi il problema non è più tanto il virus, ci sono ed è un problema. Diciamo che il termine più corretto che ormai va utilizzato è quello di malware, cioè di applicativi che possono far compiere ai nostri oggetti delle funzioni che non ci vanno bene. Per esempio? Per esempio il fatto, diciamo dal più sciocco, che è il fatto di chiedermi ma qual è la tua login e la tua password con le mille scuse che vanno sotto il nome di phishing, per poi con le mie credenziali accedere alle mie informazioni, dalle cose più semplici, il fatto di poi di infastidirmi con mille pubblicità e promozioni che non mi interessano, le cose gravi come prelevare quattrini dal mio conto in banca piuttosto che mandare mail denigratorie a mio nome, ma la cosa più grave in assoluto è il fatto di usare la mia macchina poi per danneggiare macchine altrui. Quali sono i problemi connessi anche ai reati dell'identità digitale? Cioè noi siamo sempre più legati anche a un noi stessi, ad esempio nei social network. Certo. Non esiste ancora in Italia un reato di furto d'identità, dico bene? Ma il problema, cioè, io credo che intanto non esistono, non è tanto il problema della definizione di reato specifico. Io credo che dal punto di vista legislativo abbiamo sufficienti strumenti per intervenire. Abbiamo una legge sulla privacy che è stata così tanto osteggiata, ma io ho sempre trovato che sancire per legge il fatto che io abbia un mio spazio e che la mia sfera personale sia sacra mi pare una legge estremamente avanzata. Poi ci sono state i soliti proteste perché mi hanno visto solo l'impatto burocratico, però ricordo che la sicurezza è fatta di regole, è fatta di procedure. Chiunque salga su un aereo vede che i piloti fanno proprio la lista di spunta e riempiono un sacco di carte proprio perché la sicurezza è fatta di regole. Il problema qual è? Io credo che la gente non abbia la consapevolezza di quanto importante sia per esempio il fatto che sul mio telefonino io abbia dati, informazioni che riguardano altri, dai numeri di casa, ai compleanni, o le foto dei bambini, dei miei amici, eccetera. Quelle informazioni sono preziose. Prima si diceva la sicurezza informatica parte anche solo banalmente dalla password. Assolutamente sì. Assolutamente sì, tenendo conto che, ripeto, si è passati da una situazione in cui il problema era ma io tanto non sono vittima potenziale perché non ho nulla, e quindi dicevano ma chi vuol che venga a vedere le mie cose. In realtà oggi questo scenario è drammaticamente cambiato perché non si è tanto obiettivo singolo, non sparano a noi, per usare una metafora, non c'è un cecchino che spara una singola pallottola a me, ci sono dei delinquenti armati di Kalashnikov che sparano a raffica nel mucchio e a quel punto bisogna essere attrezzati per non beccare la pallottola. Esatto, tenendo conto che appunto uno degli usi più perniciosi è quello di vedere compromesso il proprio account. Prendiamo il caso recente di Twitter. Twitter c'è in giro uno stupido malware che in qualche modo si impossessa del tuo account e manda agli amici dei link a tuo nome di cose neanche particolarmente come dire, dannose, malvagie, o... però ti fanno cliccare su dei link di pubblicità di altre cose. Che tu non avresti fatto. Tu non avresti mai fatto. Allora, prima cosa è che se un amico riceve un mio tweet in inglese, dovrebbe venire il sospetto, dice che Gigi si è bevuto qualcosa di storto stamattina, perché non parla in italiano, no? E ovviamente dall'altra parte, quello nel cliccare fidandosi solamente della mia account, a sua volta cade nella stessa trappola. Questi sono meccanismi che possono passare dall'innocuo da diventare veicolo pubblicitario al fatto che dietro a quel messaggio poteva esserci chissà quale altra diavoleria, poteva esserci pornografia, poteva esserci veramente di tutto. Questa è una cosa che la gente deve sapere, deve capire e utilizzare sostanzialmente il proprio discernimento, la propria intelligenza quotidiana che usa nella vita reale, insomma. Quindi prima dei massimi sistemi per proteggerci, prima ancora degli antivirus, insomma, la consapevolezza di quello che noi custodiamo. Certamente, anche perché costantemente tutti siamo chiamati ad adeguare i nostri sistemi di allerta naturale in un mondo che cambia drammaticamente, è un mondo che si muove di più, che viaggia molto di più di quanto non fosse quello l'epoca di mio padre o dei miei nonni, insomma, cioè, basta vedere come è cambiato il mondo con i voli low cost, no? È chiaro che spostarmi vuol dire maggiori opportunità, maggiori occasioni, ma anche maggiori pericoli, maggiori rischi, cioè. E cosa faccio io quando arrivo in una città che non conosco? Tengo gli occhi aperti, sto attento, dove ho messo il portafoglio, se arriva uno mi dice scusa, mi dai il tuo portafoglio? Cioè, ma io faccio il gonzo e glielo do subito. Cioè, tutti questi meccanismi sociali che abbiamo sviluppato non dobbiamo abbandonarli solo perché entriamo in questo mondo meno tangibile, meno concreto, ma non per questo meno vero. Grazie a Gigi Tagliapietra, presidente del Clusit. Buona giornata. Grazie a voi. Elisa ci racconta anche che nonostante la sua password non fosse 123456, le è capitato che qualcuno negli Stati Uniti accedesse al suo profilo Facebook. Insomma, come ci diceva Tagliapietra, è difficile tenere sott'occhio quelli che sono i nostri dati, perché molto spesso non ci rendiamo conto che sono quelli dati sensibili. Insomma, quando si è nel mondo online sembra di essere in un mondo privato, anche quando in realtà privato non è, soprattutto stiamo parlando dei social network, ma non sono. Sono le 9:25 minuti, noi andiamo a parlare di un altro tema, perché mi ha raggiunto qui in studio Azeb Luca Trombetta, che aprirà un nuovo programma proprio dedicato ancora al digitale su queste frequenze. Si chiama Nativi Digitali, è una parte del progetto della Voli Group dedicato proprio a Digital Divide, ma lascerei spiegare di cosa si tratta proprio a lei. Buongiorno Azeb. Ciao Damiana, buongiorno, grazie per questo invito, incursione. Nativi digitali, diciamo che il discorso che è stato fatto fino adesso rientrerà in questo nostro percorso, lo immaginiamo come un viaggio, perché all'interno di questo mondo che è quello dei nativi digitali, partendo proprio lunedì alle 10:30, facendo la grande domanda: cosa e chi sono i nativi digitali? Perché è un argomento nuovo, e anche i pensatori quindi del mondo scientifico ancora non hanno concluso la ricerca e non hanno dato una risposta definitiva. È un percorso in crescita. Affronteremo il tema appunto di chi sono, cosa fanno, e in particolar modo anche della formazione, quindi di quelli che vengono chiamati media education, ma soprattutto questo percorso vuole un po' accorciare il ponte che separa quelli che vengono chiamati comunemente migranti digitali, che sono quelli appunto di carta e penna per intenderci, e invece i giovani, gli adolescenti che ormai utilizzano mouse e schermo anche qui bisogna chiedersi se lo fanno con consapevolezza o meno. Se mettono come password 12345, come dicevo prima, o se magari invece sono proprio loro stessi che possono insegnare ai cosiddetti migranti digitali invece come utilizzare le nuove tecnologie. Posso dirti per certo che cambiano password molto spesso, tant'è che a volte si dimenticano le loro password, quindi anche qui bisogna capire per quale principio filosofico lo fanno, se lo fanno perché credono nella sicurezza oppure perché si divertono, perché sono adolescenti. Perché si divertono, magari hanno anche la possibilità, insomma, fino a un certo punto di ricordarsene anche sì. Tutte queste password. Esatto. Chissà se magari tutti tra di noi invece riuscirebbero a ricordarsene. Noi la scriviamo ancora a carta e penna da qualche parte, quindi anche qui c'è il digital divide. E qua forse non approverebbe, esatto. Gigi Tagliapietra sul metodo per mantenere sicure le nostre password. Grazie a te per l'appuntamento. L'appuntamento è ogni lunedì, partendo proprio da questo lunedì alle 10.30, ovviamente su Radio Città del Capo. E ovviamente la collaborazione con Pensatech, insomma, la diamo già per certa. Esatto. Vi dico anche che ogni informazione e ogni contenuto che poi verrà anche trasmesso in onda lo potete rileggere, riascoltare sul sito di quello che è proprio il progetto della cooperativa Voli Group, che è www.statigeneralipernatividigitali.it. Quindi seguiteci e soprattutto, essendo un percorso nuovo, diteci la vostra, perché i contenuti sono assolutamente ben accetti. Allora, le 9:28 minuti, questa puntata di Pensatech termina qui. Io ringrazio anche Marco Boscolo, Elisa Lazzarato e Marco Guglielmino che hanno reso possibile questa puntata. Adesso le notizie di Popolare Network e poi seguire la rassegna stampa nazionale curata questa mattina già da Giorgio Tinelli. Una buona giornata a tutti.